Deve cercare di dispersi, se la faccia questo, questo, questo, quindi sono tre. E invece quell'associazione che cosa ha fatto, tu sai questo, questo, questo, questo, quindi c'è sia su un asse che sull'altra dei valori che si sommano. Ma lì dipende anche dalla specializzazione delle varie associazioni? No, ma lì dipende dalle voci che hai, cioè se non lo fa, non lo fa, fondamentalmente quello, cioè se io faccio tre cose, ne faccio una, così via, cioè con l'associazione ne faccio quattro, però varie associazioni hanno fatto... Lì tu chiedi, in quel caso lì tu chiedi l'aderenza, è una matrice di affiliazione. Che una volta organizzata che si può arrivare alla matrice di affiliazione o ci si può arrivare a contare il mondo della città? No, no, l'abbiamo battezzata adesso. È interessante, cioè no, se riuscite a usare questi concetti con la pratica, io li ascolto proprio perché sono molto molto contento. Interessante. Questo qui è una certificazione che abbiamo fatto nel 2009, un impianto di 35 pagine sull'alluvione a Verona, e ci sono tutti i comuni, vedi Brentino, Belluno, Rivoli, Caprino, Pescantina, Verona, e simulavi che altri c'era sopra. Sì. E allora c'erano quelli che intervenivano in ogni scenario. Il nostro sforzo e loro sono fatti, loro superano una fase, adeguare quanto gli dice all'utilizzo concreto. Facciamo partire quattro volte. Più che altro abbiamo capito che nascondevano la tecnica ed è una cosa fattibile. Io sto facendo quanto noi vediamo magari nella condizione teorica ha un riferimento a un libro pratico, ma più che altro il giro perché serve? Perché il girare diciamo la tabella, per esempio, perché non possiamo lasciare alle colonne? No, tecnicamente si può lasciare, cioè, perché sarebbe nel perché concettualmente diciamo è più corretto mettere sulle righe i nodi e gli eventi sulle colonne, però si possono produrre come l'esempio prezzo, cioè quantità, nel senso che è una cosa tecnicamente si definita. Può fare, mi dia quel file un attimo, ce l'ha, mi può dare quel file perché se lo spostiamo nella schemina è uguale, perché alla fine sono onde le cose, si può anche non spostare, però dal punto di vista teorico è più corretto avere i nodi sulle righe e sulle colonne, poi si possono produrre si può produrre una rete tra colonne, d'accordo? Se lei lascia i nodi sulle colonne, poi deve produrre una rete tra le colonne, d'accordo? Questo si può fare, però diciamo la presentazione è una rappresentazione standard, per cui esatto, convenzionalmente si può fare così, però convenzionalmente i nodi vanno lì e gli eventi tecnicamente se si usa il file al contrario si possono comunque produrre le relazioni tra le colonne, però è una convenzione che voglio dire, le metti così. No, perché magari il software utilizza i dati in quella forma. Allora, per quanto riguarda il disegno, il software grafico, no? il software grafico non ne risente. Questo ad esempio è il file rapportato. Io qua ho tipologia di intervento e qua ho tutti quanti, è per la statistica del comune questo. Qui ho tutti quanti i vari tipologie di interventi, tipo vedi allagamenti, rifornimento idrico, ricerca dispersi, incidenti stradali, e qui ho le varie associazioni di volontariato messe che fanno l'evento. Quindi se io per dire, non so, decidessi chi è che ha fatto pattugliamento incendi, 3 più 29 sono 32, ma me l'ha fatta solamente questa associazione e questa associazione. Poi questa associazione cosa mi ha fatto? Mi ha fatto tutti questi che sono 93. Quindi ho per tipologia di evento e per associazione. Comunque facciamo così, se lei riesce a invertirla, anche in qualche modo tecnico automatico, poi la guardiamo così, perché nel disegno si può fare, ma poi nelle misure, così la usiamo proprio come esempio anche per fare le misure, va bene? Usiamo la sua. Senti, se avete matrici, portatele. Servirà 1 e 0, servirà a modificare anche, per esempio, non l'associazione quante persone hanno partecipato, però associazione X 1 perché ha partecipato, cioè io, 0 cioè, l'altro come, non come dice il professore, come dice il professore, io dovrei perché dire. Qua i numeri delle come dice il professore, ma gli indici poi si calcolano lascia stare, io come dice il professore dovrei guardarla in questo senso qua, se lei la riesce, e qua deve avere gli eventi e qua avere i cose. Perfetto. Se avete qualche esempio che magari vi è utile, lei per esempio ha fatto con la rete familiare, noi io ho visto tanto per capire come funziona. Facciamo degli esempi che la prossima, se riusciamo adesso la prossima giovedì li facciamo, perché io dunque giovedì vorrei concludere. Io avevo visto un po' di interesse, non so se necessita o forse un lavoro proprio complesso, però volevo vedere un po' forse a livello internazionale partecipazione alle guerre degli stati. Costruisca una tabella. Solo che lo vedo un po'. Perché volevo, cioè, stavo pensando un giorno a fare un collegamento tra diritto internazionale, stati che partecipano alle guerre e quelli che non partecipano. Qui c'è nel testo, ho trovato un esempio di questo, che è la matrice di Alger sulla partecipazione. Questi dovrebbero essere dei gruppi di lavoro alla comunque ho trovato l'esempio sui gruppi di partecipazione che dovrebbe essere le Nazioni Unite, in alcuni gruppi di lavoro, appunto utilizzando gli stati come nodi. Quindi al limite se volete farlo, non so, sulle guerre, sulle coalizioni per esempio, recente sarebbe per esempio chi ha attivato un piano di emergenza per i rifugiati o per... Cioè, sì. Sarebbe una cosa un po' interessante, però vedendo dei dati su, cioè, ufficiali. Che tipo di matrice conviene costruire, se è una matrice di affiliazione. Ma semplicemente attivazione o meno del piano di emergenza. Potresti mettere sull'asse in alto, in orizzontale, potresti mettere gli eventi, tipo le guerre. E sulla sinistra N, i soggetti che hanno partecipato a quella. Però siccome alcune matrici conviene costruire già con una matrice di adiacenza, io proverei ad arrivarci alle matrici di adiacenza, così le vediamo, va bene? Però posso chiedere una cosa? Certo. Tanto sicuramente ritorno in mente. Allora, prima di arrivare alle matrici di adiacenza, vediamo le matrici di incidenza. Vi ricordate il concetto di incidenza? Riguarda il rapporto tra i nodi e le linee, sono le linee ad essere incidenti con i nodi e viceversa. Quindi che cosa incrocerà la matrice di incidenza? È una matrice di affiliazione in cui ogni evento è costituito da legame tra coppie di soggetti, è una matrice del tipo N per L in cui vi sono sulle righe gli N soggetti e sulle colonne gli N legami tra di loro, quindi è una matrice soggetti per legami, ok? È una matrice di incidenza, ci dice con quali linee ciascun nodo è incidente. È una matrice di affiliazione sui generis, diciamo così, dove l'evento è il singolo legame. Vediamo subito, per non rendere la cosa più complessa di quanto in realtà non sia. Quella che trovate stava ancora scrivendo. Sì. Mi è venuto in mente. Dica, nel frattempo. Allora, siccome prima ho visto tra le righe quando faccio lo slide, però su una matrice come questa qui che vi ho fatto vedere io di affiliazione, cioè, quando lei ha fatto vedere l'esploso in 3D, prima ha fatto vedere l'esploso dei collegamenti tra nodi. Allora, mi piace che lo chiami esploso. No, il network. In 3D. Però è un linguaggio più emergenziale, esploso, ci sta bene. Cosa dovrei capire? Quanto un nodo è interessato da punti che entrano rispetto a... Capire qual è il grado, quali sono gli indici di centralità, cioè misure che poi adesso vedremo che si tirano fuori. Il grado lo sappiamo già cos'è il grado, no? Il numero di linee incidenti con il nodo. Ma tutta una serie di indici che ci dicono in che modo il nodo è centrale dentro al suo network. per la quantità di legami che ha, e globalmente centrale perché per esempio è meno distante dagli altri. Potrei capire che in un anno avrai quella tipologia di eventi che incidono di più rispetto a un altro. Sì, potrebbe capire in che modo gli eventi che hanno avuto luogo in un anno hanno creato una rete di collaborazione, quali sono gli attori più centrali e quelli che occupano le posizioni più strategiche nell'organizzazione del network, che è molto interessante. Allora, se posso andare avanti adesso, allora questa matrice qua è la matrice di affiliazione che abbiamo visto prima, d'accordo? Dobbiamo trovare i legami che grazie a questa matrice sono identificabili. Allora, quando è che due soggetti sono collegati tra loro? Quando condividono un legame, d'accordo? Allora, L1 partecipa all'evento L1, con chi altri partecipa a questo evento L1? Con L2. Abbiamo trovato il primo legame, il legame L1, tra L1 ed L2. Questa è la matrice di incidenza che creiamo a partire da questa matrice di affiliazione. Ok? Andiamo avanti. N1 non partecipa più a nessun legame, a nessun evento, e nessun altro nodo partecipa all'evento L1. Passiamo a N2. L2 partecipa, oltre che a questo evento, del quale abbiamo già dato in qualche modo conto, partecipa all'evento L2. Sì. Chi partecipa all'evento L2 assieme N4. A L2? L4. Ecco, dunque, il secondo legame che troviamo, L2, è il legame tra N2 ed L4. E così via. N3 partecipa all'evento L3 con chi? Con N5. Con N5 ed L7. Ecco gli altri due legami, il legame tra N3 ed N5 e il legame tra N3 ed L7. Ah. Ok? E poi ancora. Io devo partire da. Per fare quello di incidenza devo sempre partire però dalla matrice di affiliazione. Dalla matrice di affiliazione, oppure dalla matrice di adiacenza. Però siccome diciamo che queste matrici servono ad arrivare alla matrice di adiacenza, se lei ce l'ha già la matrice di adiacenza, che adesso vedremo. Non ha bisogno della parola, però la matrice di incidenza è chiaro che come risultato sulla parte sotto viene sempre più. Bravissimo! Ok, perché? Perché ogni evento c'è un legame, che è un legame sostanzialmente, può prevedere al massimo due nodi, sono due i nodi che possono costituire un legame. Per questa ragione, se consideriamo ogni legame un evento e guardiamo i marginali di colonna, qui troviamo sempre due. Ok? Andiamo avanti, abbiamo trovato il legame tra N3 ed N7, poi N4 partecipa all'evento N2, ma del legame con N2 abbiamo già dato conto, ed è sufficiente così perché i legami non sono diretti. Il legame l'abbiamo già trovato, N4 partecipa anche all'evento N4, assieme a chi? Assieme ad N6 e ad N7. Ecco dunque i legami N5 ed N6, tra N4 ed N6, ed N4 ed N7. Ed N5 partecipa all'evento E3, di questo legame abbiamo già dato conto, ma non abbiamo ancora dato conto del legame con N7, e quindi N5, settimo legame, collegamento con N7. Infine, N6 partecipa all'evento E4, assieme a chi? Ad N4, ma di questo legame abbiamo già dato conto prima, c'è anche N7. L'ultimo legame è il legame L8 tra N6 ed N7. Dei legami che leggiamo a partire delle affiliazioni, che leggiamo a partire da questa linea, quindi da nodo L7 abbiamo già dato conto perché è l'ultima. D'accordo? Ma anche lì, allora, anche le incidenze sono il doppio degli eventi? O è un caso che sia così? Beh, no. Perché qua calcoliamo le linee. Questi legami avrebbero potuto essere generati da un solo evento. D'accordo? Se tutti i soggetti avessero partecipato, sarebbero già stati tutti in collegamento tra di loro. È un caso. Sì, ma mi ero posta anch'io quella domanda di Brito, ma perché ci sono 8 legami nel 5? Ci sono 8 legami perché se noi analizziamo il modo in cui i soggetti si incrociano grazie a questi eventi, d'accordo? Complessivamente emergono tra di loro 8 legami. Sì, infatti ho guardato, sopra ci sono 4 eventi, 8 legami, per quello che... Sì, ma per esempio se nel primo evento, cioè forse che se N1 partecipava a tutti gli eventi, dovevamo per forza aggiungere dei legami. Sì, però avremmo potuto avere... L'N1 poteva partecipare lì a 4 eventi, no? Per esempio, sì, se l'N1 fa... Però poteva avere 7 legami, e quindi, cioè, voglio dire... Se avremmo potuto generare gli 8 legami, anche soltanto grazie a un evento. Se avessimo avuto un evento solo per calcolare quanti incidenti, non avremmo dovuto fare il G per questo, questo succede, perché esatto, questo succede, che cosa ha detto adesso il G-1? Ripeto, mi piazza il G-1 se avessi avuto tutti uno su E, e avessi avuto solamente un evento. E tu sì? Sì. E avrei dovuto fare un G per G-1. Diviso? 2. E il grafo come si sarebbe chiamato in quel caso? Il grafo in cui tutti i legami potenzialmente attivabili sono attivati? Un grafo con mu. Mu, che cosa stai dicendo? Non multiplo, com completo. Il grafo che ha densità pari a 1. Denso. È eccezionale comunque, anche la bellezza della grafia ha già copiato tutte le matrici. Comunque ci sono poi all'interno del tempo. Questo è perché voi avete un approccio come si dice, deduttivo, cioè guardate insieme, provate a cercare delle regole già per comprenderlo. Invece no, sto cercando in ogni modo. Dei numeri, sotto c'è tutto 2, là ce ne sono 4, là ci sono 4, 4 con 2 fa 8. È una questione, di metodo, no? Se io sto prendendo un pezzettino alla volta e mi sto guidando qua, e poi invece di farmi guidare piano piano da me che mi spingo, no? Dal basso verso l'alto, in maniera induttiva, capire noi questo. Noi non siamo nati gattonando, siamo nati saltando. Si vede che tipo di abbiamo un'età diversa rispetto ai suoi studenti comuni. Abbiamo un'età diversa. Sì, però il discorso è questo, perché per comprendere un argomento nuovo, in ogni caso è bene farlo, come dire, un pezzettino alla volta. Se no poi, come dire, si rischia appunto, mentre io stavo spiegando quel passaggino un caso alla volta, magari poi eravate entrati in difficoltà perché dicevano, perché è proprio il doppio? È proprio, allora c'è una regola per più veloce per determinarlo, no? D'accordo? Ecco, ogni tanto bisogna imbrigliare le celluline grigie che vanno. Allora, detto questo, passiamo alla matrice di adiacenza. O socio matrice. La matrice di adiacenza la indichiamo convenzionalmente con una X. La adiacenza è una caratteristica che riguarda il rapporto tra i nodi. Se sono soggetti collettivi potremmo dire tra i gruppi, d'accordo? Tra i nodi, cioè sono i nodi i soggetti ad essere adiacenti tra di loro. Invece l'incidenza, come avete visto prima, incrocia le linee con i nodi, cioè appunto la linea ad essere incidente con il nodo e il nodo ad essere incidente con la linea. Questa matrice è una matrice quadrata di forma n per n, in cui sia sulle righe che sulle colonne sono posti gli n soggetti che costituiscono il reticolo. Questa matrice mostra se i nodi sono o non sono adiacenti tra di loro. È quella della matrice che abbiamo visto prima. No, nello studio che aveva fatto Deloisi. Sì. Mi ricordo, ha fatto vedere delle linee di adiacenza su quelli che erano sullo stesso canale. Sì. Erano, diciamo, collegati. Collegati tra di loro dentro una matrice. Esatto. Giusto, perché la matrice di adiacenza si può costituire o intervistando i soggetti o raccogliendo i dati, oppure a partire dalla matrice di affiliazione, come quella che abbiamo usato per le OSI, dove c'erano i siti e i canali. E comunque una matrice. Ma sarebbe quella dell'essere non essa? Caratteristica. Sì, però nella matrice di adiacenza ci possono essere anche legami orientati, quindi non basta esserci o no. Ok. Può essere, quindi può esserci in un verso e può esserci in un altro. Adesso vediamola dal, come dire, partendo proprio dai grafi semplici. Ovviamente. vado a chiederlo al bidello. No, ci vado io, ci vado a chiedere, stia pure comodo. Di solito scuola non ti mandava. Fai anche la fila della testa. Cos'è che sta dicendo? Cos'è che sta cercando? Il gesso. Ah. Il gessetto. Siamo messi in moglie. C'è un volume, c'è un volume pazzesco. No. Oggi si lavora. Oggi si lavora lì oggi. Del purificatore. Allora proviamo a costruire. Anzi, vedete, mi risparmio il lavoro. Scriviamo soltanto questo. X I J uguale X J I. Cioè, quando noi facciamo riferimento ad una matrice, per identificare un valore al suo interno, valore che indichiamo con un x minuscolo, dobbiamo dire questo valore in che riga si trova e in quale colonna. D'accordo? Convenzionalmente al pedice, qui, in pedice, riportiamo prima il numero della riga e dopo il numero della colonna. Ok, quindi I e J sono, per esempio, mi dica un I e J a caso, naturalmente compreso tra 1 e 8. Gianni e Piero. Gianni che numero è? 1. 1. E Piero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 8, no. 8. E 8. Piero. Quindi x1,8 è il valore che troviamo all'incrocio tra la prima riga, qual è x8,1? E l'ottava colonna ed è uno 0. È uguale a x8,1, cioè all'incrocio tra Piero, ottava riga, e Gianni, prima colonna. Perché nel grafo semplice vale questa uguaglianza? Non c'è la direzione. Esatto, ottimo. Proprio per questo motivo questa matrice è sempre simmetrica rispetto a questa diagonale. Se c'è un legame tra o non c'è un legame tra Piero e Gianni, non ci sarà neanche tra Gianni e Piero. Se c'è un legame tra Piero e Gigi, vedete, Piero e Gigi, ci sarà anche il legame tra Gigi e Piero. Questa matrice è sempre simmetrica rispetto a questa diagonale. Che cosa stanno ad indicare qua? Mi dispiace che non si veda, ma facciamo così. Immaginario di riga, immaginario di colonna. Adesso non voglio come risposta la somma dei valori, eh? No, quanti legami ha Gianni? Nel grafo semplice, come l'abbiamo chiamato? La quantità di linee incidenti con il nodo. Il numero di legami. Il numero dei legami. Il numero dei legami? Qui se c'è un legame. Ma Gianni ha un legame con Rossi. E quindi la somma dei legami. Se Piero ha due linee incidenti con il nodo, ha due legami. Ok, cioè ha un uguale a 2. Il grado. Il grado. Sì, no. Il grado del nodo. Ok? Quante linee sono incidenti? Nel caso del grafo semplice sono appunto il numero dei legami, la quantità di legami semplici che il soggetto ha. Bene, che succede se il grafo è diretto? Se il grafo è diretto, questa uguaglianza, questa equivalenza non vale più. Cioè può capitare che siano uguali i valori che troviamo all'incrocio tra x, j e poi x, j, i, però è un caso. Non è detto che se Piero sceglie Gigi, anche Gigi scelga Piero, d'accordo? Quindi all'incrocio tra le righe e le colonne possiamo trovare, invertendo i valori, appunto, dei valori diversi. I soggetti posti sulle righe sono considerati come coloro che determinano le dati in uscita, i soggetti posti sulle colonne come coloro che ricevono un legame. Quindi, se io prendo x1,8, sto considerando il legame che parte da 1, dal soggetto che sta nella riga 1, che era Gianni, e finisce a Piero. Cioè sto considerando Ecco, poniamo n1 ed n8. Se x1 8 è uguale a 1, vuol dire che c'è questo. Ok? Se x8 1 è uguale a 1, vuol dire che c'è anche questo. Quindi siamo a grado 2. Perché ogni nodo deve tanto. Questo ha un grado in uscita pari a 1 e un grado in entrata pari a 1. Non c'è? Ah, sì, è vero, perché ci sono due gradi, uno in entrata e uno in uscita. Ok? Però potrebbe anche non esserci, allora lo scrivo. Come? E se non c'è? Se non c'è, se non c'è il legame tra 8 e 1, 0, sotto 1 sarà un 9 a 0. Ah. Ok, ecco l'esempio che trovate all'interno del testo, con ovviamente questa parte che è saltata. Eccola qua. Vedete? Vanda, Davide, dove lo trovo questo legame? Mettendo Wanda sulle righe e sulle colonne, è un legame in uscita da Wanda, quindi dovrò considerarla sulle righe. Wanda, Davide, ecco che trovo un 1. Ok? C'è il reciproco di questo legame? No. Se incrocio Davide e Wanda, trovo un 0. Ok? Quindi vedete che l'equivalenza in questo caso x 5,6 è diverso da x6,5. Quindi grafo semplice non si utilizza, grafo diretto si utilizza questa procedura. Sì, diciamo che le matrici sono uguali. Se avete un grafo semplice e dovete inserire i dati, è sufficiente compilare metà matrice e poi automaticamente prende la simmetria. Se il grafo è un grafo diretto, no, questo non è possibile. Ok? Perché Davide in uscita è una cosa, Davide in entrata è un'altra. Infatti, se voi guardate Davide in uscita, quanti legami in uscita ha Davide? 1. Quanti legami in entrata ha Davide? 4. Si ricorda quello di cui abbiamo parlato ieri? È esattamente lo stesso esempio. Questa è la matrice di adiacenza che esprime questo grafo. Quindi noi possiamo esprimere i dati senza passare mai attraverso la rappresentazione, ma è sufficiente questa matrice. Può tornare indietro un attimo, cioè, i soggetti posti sulle colonne? Sono le righe, i soggetti posti sulle colonne sono i soggetti che ricevono i legami, sulle righe i soggetti che danno, che scelgono. Quindi legami in uscita e legami in entrata. Ecco, rimane un problema che in una matrice di adiacenza, torno un attimo, vado avanti un secondo, in una matrice di adiacenza la situazione, anzi per semplicità vado ancora più indietro, guardate qua, tra Gianni e Daniela io trovo uno 0, perché tra Gianni e Daniela non c'è nessun legame, d'accordo? Tra Gianni e Nino trovo alla stessa maniera uno 0, giusto? Perché non c'è nessun legame diretto tra questi due soggetti. Secondo voi è uguale la situazione? Diciamo la prossimità, la raggiungibilità, la distanza tra Gianni e Daniela è uguale a quella che c'è tra Gianni e Nino? No, perché tra Gianni e Daniela esiste un sentiero che permette, sebbene con una mediazione, un broker di passare ad un'informazione, ad una risorsa, eccetera. La matrice di adiacenza fa rispondere alla domanda: sono adiacenti? No, 0, sì, 1 e basta. Ci dà informazioni sui legami diretti. Quando il vostro collega giovedì prossimo ci porterà con la matrice, noi vedremo i legami diretti ma vedremo che dei soggetti, anche se non hanno legami diretti o ne hanno pochi, anzi anche se ne hanno pochi, ottengono dentro il network una posizione globalmente molto strategica. Come si fa allora ad accontentarsi di questa matrice? Questa matrice ci dà un'informazione sulla presenza dei legami, ma non ci dice se i soggetti sono raggiungibili tra di loro, cioè se esiste un sentiero connessi, quanto è lungo questo sentiero, d'accordo? Allora, per questo motivo, noi dobbiamo affrontare il tema delle operazioni matriciali sulle matrici, per vedere appunto se ci sono delle modifiche sulle matrici che ci consentono di risolvere questo problema. Allora, la slide che ho saltato, questa qui, è, l'avevo già detto a voce, immaginari di riga e immaginari di colonna mostrano nelle matrici di adiacenza relative ai grafi diretti il grado di uscita e il grado di entrata. D'accordo? Abbiamo visto il caso di Davide, in uscita 1, in entrata 4. La prima operazione che vediamo è la permutazione di una matrice. Che cos'è una permutazione di una matrice? La matrice è permutata quando si modifica. La permutazione consiste nella modificazione dell'ordine delle righe e conseguentemente delle colonne all'interno di una matrice. Avete notato che, e questa è una caratteristica che tutte le matrici devono avere nel network analysis, l'ordine dei nomi seguito sulle righe era uguale a quello seguito sulle colonne. Però noi potremmo avere per esempio la necessità di concentrarci, guardando la matrice, sui rapporti che i soggetti hanno tra di loro rispetto al sesso. Per esempio, i rapporti solo tra maschi, solo tra femmine, in uscita dai maschi verso le femmine, in uscita dalle femmine verso i maschi. Potremmo avere questa necessità, oppure tra italiani e non italiani, tra appartenenti a un gruppo etnico e a un altro gruppo etnico, di visualizzare già con la matrice questa informazione. Guardate che le matrici sono usate per dare le informazioni. La matrice che prima ci ha fatto vedere il vostro collega, per certi aspetti è autoesplicativa, cioè è commentata di per sé, d'accordo? Allora noi possiamo permutare la matrice, cioè cambiare l'ordine delle righe e delle colonne di una matrice di adiacenza in genere, in base a qualche criterio che risulta, che risulti utile per l'indagine che stiamo svolgendo. Per esempio, qua vedete, abbiamo la matrice, questo è un grafo, da che cosa ci accorgiamo immediatamente che è un grafo diretto? Perché c'è tra Gianni e Gianni non c'è corrispondenza, tra Daniele e Daniele non c'è corrispondenza, quindi... Sì, diciamo che si tratta solo tra oggetti, tra soggetti e non soggetti e eventi. Perché non ci sono, non c'è simmetria rispetto alla diagonale, questo volete dire. La simmetria manca e si vede in maniera forse ancora più rapidamente in questo caso, anche per immaginare le righe di colonna che sono diverse. Quello che è in entrata non coincide con quello che è la diagonale. Ok, allora, che cosa è stato fatto qua? Nella sostanza non cambia nulla, ma si sono messe tutte le femmine al primo posto, Daniela, Rosa e Wanda, e i maschi a partire da questa posizione. Beh, una riorganizzazione della tabella funzionale all'indagine che stai facendo. No, all'indagine. Alla comprensione di qualche fenomeno relazionale, cioè la permutazione. Quello che lei ha dato adesso è esattamente la definizione di permutazione. Chiaramente se c'è un legame tra Gianni e Rosi, lo troviamo pure qua, non è che si modifichi la sostanza delle informazioni, però si riorganizza in modo che abbiamo da una parte le femmine e dall'altra i maschi. Qui abbiamo i legami tra le femmine, qui i legami tra i maschi di entrata e uscita, qui i legami di entrata e uscita tra i maschi, qui i legami in uscita delle femmine verso i maschi e qui i legami in uscita dei maschi verso le femmine, quindi in entrata tra i maschi e guarda delle femmine, in entrata delle femmine. Diceva? Quadranti. Sì, come se fossero i quattro quadranti, esatto. Oddio, non è che come se fossero i quattro quadranti, potremmo definirli anche i sottogruppi. Sembrano i quattro quadranti, si, no. Si ricorda qual è il numero del primo quadrante? Potrebbe essere quello sopra. Questo. Due. Tre. Tre e quattro, giusto? Ok. Allora, seconda operazione è l'elevazione a potenza di una matrice. sono dei software che fanno proprio tutti questi calcoli matriciali. Certo, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Quella della riorganizzazione la si fa. Si fa con il software però, eh. Cioè, sì, sì, ci sono dei software. Non è difficile, però immagini di avere, come nel caso precedente, 55 righe, 55 colonne per organizzare magari su base a 4 criteri diversi. Sto pensando a sta cosa. Ma deve, attenzione, perché non si tratta semplicemente di spostare delle righe e delle colonne, perché mentre sposta le righe deve spostare pure le colonne, sicuramente si fa, io non dico che non si faccia, mentre sposta la riga deve spostare pure la colonna e quindi deve sostanzialmente rifarla e ricopiare i dati da una matrice all'altra. Oppure secondo lei c'è un modo automatico per farlo in Excel, si potrebbe trovare? No, alcuni software hanno il calcolo matriciale. Ah certo, no, no. Proprio Basic aveva il calcolo matriciale. No, però il Basic. Sì. Però la sua collega parlava della riorganizzazione delle righe e delle colonne. L'elemento di complessità nella matrice degli adiacenzi in modo particolare, secondo me... Con Access. Con Access? Io Access non lo so usare. Poi con Excel. Comunque con i programmi di software di primo la prima è l'elevazione potenza di matrice, una operazione, come la chiamiamo? Riorganizzazione? No? Si chiama permutazione. Okay. Permutazione. Permutazione. Allora. Diciamo che però a noi serve. L'elevazione, capire a che cosa serve l'elevazione a potenza, ci serve a introdurre le ultime due matrici che mancano, d'accordo? Quindi, siccome il problema è produrre con le matrici, noi chiediamo al software di produrci quella matrice. Dopodiché il software la produce moltiplicando tra di loro, elevando a potenza in questo caso la matrice, d'accordo? Ma non dobbiamo farlo noi. Però, come dicevamo anche prima, capire qual è il meccanismo è utile perché non perdiamo il controllo delle operazioni che magari poi il software fa. Perché questo per... il calcolo delle matrici quando ho fatto matematica per economisti. Il calcolo matriciale, secondo famose tre regole del calcolo matriciale. Se la ricorda? No, mi ricordo l'unica che avevo imparato, la più semplice. Il professore non voleva farmi passare in compito perché lui non conosceva quella regola lì. Ho dovuto portare il testo di matematica e dimostrargli che c'era una terza regola. Sì, però sono quelle cose in più, per esempio, la faccenda dei quattro quadranti che è uscita poco fa, me la ricordo bene perché avevo la tendenza al liceo a contarli da sinistra a destra. Poi ho passato a contarli così, sì, appena ci introdotti gli assi cartesiani, eccetera, no? E mi ricordo di aver creato qualche regola mentale che mi costringeva a fare sto giro con la mano. Io mi ero costruito una regola mentale con le formulacce pazzesche, con la direzione dei vettori. Allora dicevo i venti del nord-est, così mi ricordavo le frecce come giravano, per il film, tutta una filastrocca. È quasi più difficile per ricordarmi, la direzione dei vettori e tutti gli apici ipetici. Perché come li scrivevo da qualche parte o dovevo fare un escamotage mentale. Sì, sì, metodologie. Bene. E come giro neve quando metti gli elettrodi. Si fa giro neve. Giallo, rosso, nero, verde. Perché lo chiamate giro neve? Giallo, giro neve, giallo. Sono colorati. Allora, tu fai giallo, rosso, nero, verde. È come tipo come quando fuori piove. Esatto. Ho capito. D'accordo. Lo sapevo. Giocatore di carta, Com'è? Come quando fuori piove, giocatore di carta. Io, sta scherzando. Cioè, si usa per il poker, no? Anche per le scale? Anche per le scale, sì. Allora, a che cosa serve l'elevazione a potenza di una matrice? Occorre calcolare rapidamente la raggiungibilità di un nodo da parte di qualsiasi altro nodo è la distanza tra due nodi qualsiasi di un grafo, cioè a produrre poi, vedremo, la matrice di raggiungibilità e la matrice delle distanze, che sono le ultime due matrici che ci serve introdurre. Quando è che può essere svolto il prodotto da due matrici? Quando il numero di colonne della prima matrice è uguale al numero di righe della seconda. Proviamo a fare un esempio. Allora, vi ricordate come si esprime la matrice di adiacenza? Con una X. Ok? Costruiamo un grafico. Eccolo qua. Un grafo in linea. N1. N2, N3 ed N4. Adesso la relativa matrice di adiacenza che io scriverò sotto vostra dettatura. Se moltiplico, vedete la stessa matrice, d'accordo? Devo moltiplicare la matrice per se stessa, vedete cosa succede, ok? Fatto la matrice uguale identica. Esatto, devo moltiplicare per se stessa, ok? Quindi otterrò x alla seconda, giusto? Ok, prepariamo. Non è venuto l'intuito, non si può, però è venuto l'idea, non si può. Ok, allora, la mia idea parte da sopra, però, da quella riga là che ha scritto quei nomi. Sentiamo la sua. Allora, n1 io moltiplico 1 per 1 e quindi mi darà sempre 1. L'n2 io lo moltiplico, ho due legami con l'n1 e due legami con l'n2 e con l'n3 e quindi mi darà 4, che sarebbe 2 al quadrato. E per ottenere che cosa? No, io do i risultati, però qua sono solo. Io do i numeri, no! Ma io sto parlando dei valori da mettere nei diagonali adesso. No, ma non possiamo andare con metodo e fare il calcolo. Ma già te la precedo. Se mi autorizzato. Se mi autorizzato, sì. Se mi autorizzato, sì. Perché non gli lascia fare il calcolo che così? Secondo me. Professore, facciamo il calcolo e vediamo cosa viene fuori. Signore, però io mi concedo la massima libertà di espressione, voi questo me lo dovete ricordare. No, siccome è che cosa? La riga e la colonna, no? Che vanno elevate al quadrato. No, adesso vi faccio vedere come si fa. Questo è il modo in cui si fa il prodotto in generale. Il fatto che sia un'elevazione al quadrato per noi. È dovuto al fatto che moltiplichiamo la matrice per se stessa, d'accordo? Però questa è la regola generale del prodotto tra matrici. Se voi mi autorizzate io vado. Ok, sì, grazie. Yes, grazie. Thank you. Allora, 0 per 0, prima riga, prima colonna, ok? Prendiamo i valori, il primo valore è il primo, 0 per 0, 0 per 0, più il secondo valore per il secondo valore. D'accordo? Più 1 per 1, più terzo valore per il terzo valore, cioè 0 per 0, più quarto valore per il quarto valore, e di nuovo 0 per 0, 0 più 1 più 0 più 0, 1. Questo valore, siccome incrocia il caso con se stesso, lo riporto, ma l'ho detto tra parentesi, che non è che mi dia tante informazioni, abbiamo parlato già dei rapporti dei casi con loro stessi. Andiamo avanti. Prima riga, seconda colonna, e dunque prima riga, seconda colonna. Mi sentite tutti? 0 per 1 più 1 per 0 più 0 per 1 più 0 per 0 0 più 0 più 0 più 0 uguale 0. Ok? Prima riga per terza colonna, quindi prima riga e terza colonna, 0 per 0, 1 per 1, 0 per 0, 0 per 1, 0, e quindi 0 più 1 più 0 più 0. Attenzione, abbiamo trovato un 1 all'incrocio tra n1 ed n3 che non c'è nella matrice x al quadrato, quindi abbiamo trovato un sentiero di lunghezza 2 tra gli attori n1 ed n3. C'è un sentiero di lunghezza 2 tra gli attori n1 ed n3? Sì, ma probabilmente sì. Allora, elevando al quadrato una matrice, abbiamo trovato la risposta alla domanda: esiste un sentiero di lunghezza 2 tra i nodi? Sì, tra n1 ed n3 esiste. Tra n1 ed n2, che sono direttamente connessi, invece, non esiste in questo caso. Ok? Andiamo avanti. Prima riga e quarta colonna. 0 per 0, 1 per 0, 0 per 1, 0 per 0. E abbiamo un 0. Questa matrice sarà simmetrica come le altre, quindi posso riportare qui i valori. D'accordo? Da n1 ad n3, ma anche da n3 ad n1. Se io adesso replicassi l'operazione troverei esattamente gli stessi valori. Va per il grafo e il grafo semplice, per la matrice simmetrica. Andiamo a completarla. Seconda riga, seconda colonna. Seconda riga, seconda colonna. 1 per 1, 0 per 0, 1 per 1 e 0 per 0. Totale della somma, 2, 1 più 0 più 1 più 0. Ok, tra parentesi, perché è un valore di incrocio. Poi lei ci spiegherà tutta la sua ipotesi su questi incroci. Seconda riga e terza colonna. Seconda riga, terza colonna, 1 per 0, 0 per 1, 1 per 0, 0 per 1, 0, 1, 0. Quindi esiste un sentiero di lunghezza 2, 3 e 2 delle 3? No? No, è 0. Che prima esisteva. Ma il 2 che cosa vuol dire? Che ha due? Le due? No, due legami. Tra N2 e N2. Tra... Sì, ma questi li portiamo dietro, ma non hanno nessun, non hanno nessun significato. Quindi tra N2 e N3. Tra N2 e N3 c'è un 0. No. Seconda riga, terza colonna. Seconda riga, terza colonna. 1 per 0, 0 per 1, 1 per 0, 0 per 1. 0 più 0 più 0 più 0 è 0. C'è un legame. C'è un legame. C'è un legame diretto di distanza 1, di lunghezza 1 nella matrice di adiacenza tra N2 e N3. Ma non c'è un sentiero di lunghezza 2 tra N2 e N3. Ok? Vediamo invece che cosa succede tra N2 e N4. Okay. Seconda riga, quarta colonna. Madonna, prof, dopo questo esercizio qua ho bisogno di una bottiglia. Uno, le ho portate. Ah, poi un liquido contentoso, porto sempre con me. Allora, prima riga... la luce della fredda. Esatto. Il prima che avete mangiato di nuovo i tronchi, signori, vi ho visto, cosa pensate? Che poche coppie. Che poche coppie. Sì. Guardate lì, non ne faccio nulla. Prima riga, quarta colonna, ci siete tutti? Sì, sì. Ok? 1 per 0, 0 per 0, 1 per 1 e 0 per 0, 0 più 0 più 1 più 0, 0. 1. Tra N2 e N4 c'è un sentiero di lunghezza 2? Sì. Sì, ed è appunto quello che abbiamo trovato con questa matrice, è simmetrica, ci sarà anche tra N4 e N2. D'accordo? Poi, terza riga, terza colonna, 0 per 0, 1 per 1, 0 per 0, 1 per 1, abbiamo di nuovo un 2. N3 ed N4, terza riga, quarta colonna, 0, 0, 0, 0. E infine N4, N4, 0, 0, 1, 0. Ci possiamo fermare qua secondo voi? No. Perché vi ho fatto, vi ho disegnato un grafo a linea? Perché nel grafo a linea noi abbiamo una quantità di legami che è pari a G meno 1, ok? Che è anche la lunghezza massima che può avere un sentiero dentro un grafo semplice, cioè due nodi, se sono raggiungibili, possono essere raggiungibili al massimo a distanza g-1, cioè devono subire la mediazione di tutti i nodi all'interno della rete, devono avere cioè g-1 legami, vedete? 1, 2 e 3, non ci può essere un sentiero più lungo di questo se due nodi sono raggiungibili, ok? Il sentiero può essere al massimo lungo g-3. Questo che cosa vuol dire? Che ha senso fare questa operazione fino a x elevato alla g-1. A quanto è uguale g-1 all'interno di questo grafo? 3. A 3. Quindi dobbiamo provare a ottenere x al cubo. Come si può ottenere x al cubo? Dobbiamo moltiplicare. Posso fare una foto qua? Perché... Sì, non posso scriverli dopo, cioè, dove ho pensato perché... Comunque, dopo guardate, nel testo c'è l'esempio, eh? Si sarà ricordato. Quindi dobbiamo fare un'altra tabella con x al 3? Sì. Questo è l'esempio più semplice che trovate nel testo, eh? Ed è a pagina, ve lo dico subito, la pagina, tu trovate questo qua. Qui facciamo un album a fine anno. Fate un album. Mettiamo anche questo. Questa è, la trovate a pagina 111, eh? 111, trovate l'esempio del testo. Allora, vogliamo fare x al cubo? Vi interessa? Vedo che si è creata anche una certa emozione di energia rispetto a questo interessante argomento. Allora, la forza della disperazione. Non dica così, non dica così, perché ho visto che provava piacere mentre guardavo la matrice. Prima il secondo, sì, adesso con la terza. Non dica così che non è vero, via. Allora, adesso per comodità non sto a copiarle tutte, moltiplichiamo queste due tra di loro, va bene? X alla seconda e questo x qui per ottenere x al cubo. Naturalmente potremmo farlo per tutto, però siccome abbiamo già trovato, sappiamo già che n1 e n2 sono collegati direttamente ed n1 ed n3 sono collegati direttamente, l'unico valore per il quale ci converrà farlo è verificare se esiste, noi naturalmente stiamo parlando, lo sappiamo già che c'è, il disegno, però dobbiamo verificare se c'è un sentiero di lunghezza 3 tra n1 ed n4. Quindi incrociamo la prima riga e la quarta colonna, d'accordo? È chiaro quello che stiamo facendo? Dall'incrocio con n1 non ha senso, l'incrocio con n2 ed n3 sappiamo già che c'è un sentiero di lunghezza 1, cioè un collegamento diretto, e con N3 un sentiero di lunghezza 2, cioè un collegamento che prevede una mediazione, due passi, d'accordo? Vediamo N1, N4, ok? 0, quindi prima riga, quarta colonna, 0 per 0, 0, 1 per 1, 1, 0 per 0, 0, 0 per 1, 0, ed ecco qua l'uno, cioè il sentiero di lunghezza 3 tra n1 ed n4. Vuol dire che tra uno, da n1 per arrivare a n4 deve fare tre passaggi. Esatto, sì. Quindi abbiamo trovato in questo modo la strategia di, una strategia per rispondere alla domanda: due nodi sono tra di loro raggiungibili? Non ci interessa a che distanza, sono tra di loro raggiungibili? Sì, è sufficiente trovare almeno una volta un 1 qui dentro. Però è molto più semplice quella rappresentazione lineare che non quella matriciale. Però non tutti i grafi sono composti da quattro nodi in fila tra loro, d'accordo? Però dovete tenere presente questo. Quando voi inserite i dati relativi alla matrice di incidenza, oppure meglio, ancora più semplice, di affiliazione, come adesso ci porterà i dati il vostro collega, producete subito la matrice di adiacenza, lo fa il software automaticamente. Tanti anni fa, quando io ho cominciato, non lo facevano automaticamente, bisognava farlo a mano, un calcolo, sì, prendere uno alla volta, eccetera. Bon. Allora, e una volta fatto questo, voi potete produrre, e vi faccio vedere, vi farò vedere la finestra dove c'è un modo per farlo, la matrice di raggiungibilità che vi dice sì, sono raggiungibili oppure no, non lo sono con uno zero, e anche, seconda domanda, a che distanza sono raggiungibili con la matrice di adiacenza, che sappiamo la distanza 1, sarebbe l'esponente di questa equazione a potenza, o meglio ancora la potenza a cui noi lo dobbiamo elevare. Quindi quando uno fa il corso, quando fa il censimento, quello lì ha avuto un orgasmo, mi scuso per questo. Chi ha avuto un orgasmo? Hanno fatto il censimento, tutti questi dati da controllare, con tutte le dati che avevano, ha fatto una matrice, ha fatto una cosa stratosferica, adesso sia stata la matrice più grande d'Italia, proprio. Tutta la gente che c'era, andavo a catenare tutti questi dati, i mediatori che c'erano. Sì, ma non ci sono mica, io non mi risulta che ci siano dati di questo sulle relazioni, sul network, l'eccezimento. Comunque si ferma al 3 o bisogna andare. Quando è che ci no, niente da questa. Qui avrebbe senso arrivare a 4? No. In un grafo no, perché da 4 nodi. non ci può essere un sentiero di lunghezza 4. No, se fosse stato da 5 però... Fino al 4, G-1. Fino a G-1, perché non è possibile averne uno più lungo di G-1 all'interno. Possono essere più brevi, o al massimo uguale a G-1, ma non ci può essere un sentiero lungo G-4, o G-1, o 5, non è possibile. Ci può essere un percorso, cioè tornare più volte indietro, prevedere più volte le stesse linee, gli stessi nodi, ma non un sentiero. Chiedo scusa se esco un po' fuori, però... Per esempio, se noi non abbiamo la linea, se non abbiamo la linea tra N2 e N3. Se non avete la linea tra N2 e N3, possiamo fare questi calcoli ancora o? Certo che li potete fare. Naturalmente non trovate i sentieri, perché questa matrice è diversa. Ok? Facciamo un esempio. Tra N2 e N3 non c'è il legame, quindi vuol dire che qua dentro sparisce questo legame qua. Ok? Ci siamo? Sì, siamo. Noi abbiamo trovato un legame tra N2 ed N4 dovuto proprio grazie alla mediazione di N2, quindi N1 tra N1 ed N3, vabbè, prendiamo questo esempio qua, ok? N1 ed N3, quindi prima riga, terza colonna, prima riga, terza colonna. 0x0, 1x0, 0x0, 0x1, 0. Quindi sparisce anche, sì, perfetto. Questo sentiero, quindi no, qui avreste avuto un 0. Sì. D'accordo? Avete capito la domanda che ho fatto con lei? Sì. Quindi non c'è neanche il valore della programmatrice e quindi non si trova il sentiero di lunghezza 2. Ok, però questo è solo per esempio che abbiamo fatto. Bene. Nella matrice di adiacenza X1, quindi sono adiacenti, sono legati dal valore 1 i soggetti che sono a distanza 1, cioè direttamente connessi. Nella matrice X alla seconda sono legati dal valore 1 i soggetti che sono a distanza 2. Nella matrice X al cubo sono legati dal valore 1 i soggetti che sono a distanza 3, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Elevando a potenza da 1, che è la matrice di... Buonasera, arrivederci. Grazie, sa. Sì, ma ho fatto un po'. Bocca al lupo. Ciao. Crepi. Grazie, arrivederci. Elevando a potenza da 1 a C-1 una matrice di adiacenza, possiamo sapere se e a quale distanza due soggetti sono tra di loro connessi. Ok? Però allora tutti questi calcoli qua li devi fare per forza con un programma. Sì, ma il programma... Non è che vi faccio vedere i calcoli, però avete la possibilità di trovare la matrice di raggiungibilità. Ma non dovete fare il disegno, non dovete comunicare il disegno al software. Basta mettere la matrice di adiacenza. Chiaro che qua devi capire la logica che c'è sotto, se no non riesci a usare neanche il programma. Esatto. Cioè. Quindi tutto serve per capire la distanza. La raggiungibilità. La raggiungibilità. Sono due cose collegate ma diverse. Ok? Quindi possiamo ottenere a partire da una semplice matrice di adiacenza o sociomatrice e senza ricostruire graficamente il due altre matrici molto importanti, la matrice di raggiungibilità e la matrice di distanza. La matrice di raggiungibilità risponde alla domanda, due no, sono tra di loro raggiungibili? No, 0, sì, 1. La matrice di distanza risponde alla domanda, se sono raggiungibili, a che distanza lo sono? Cioè quanti passi bisogna fare per passare da un nodo all'altro? Mentre la raggiungibilità è raggiungibile, sì, no? Esatto. Comunque è una specie di, diciamo, un legamento indiretto, perché alla fine non è che può essere considerato un collegamento indiretto, non diretto. È indiretto, nel senso che prevede dei mediatori. Però la matrice di distanza è una conseguenza della matrice di raggiungibilità. Sì, cioè, perché se io ho sì, allora posso definire la distanza. Se io esatto, no. Esatto. Sì. La matrice di raggiungibilità, in effetti c'è un po', come vedremo c'è uno zero, se i nodi non sono. La matrice di raggiungibilità, che possiamo esprimere con una R convenzionalmente, è una matrice binaria, questo l'aveva detto, l'aveva identificato lei, il fatto che la domanda, la vostra collega, il fatto che la domanda prevede una risposta dicotomica, sì, no, e quadrata del tipo N per N, cioè soggetti per soggetti. Le celle valgono 1 se i soggetti sono collegati da un sentiero di qualsiasi lunghezza esso sia, valgono invece 0 se sono reciprocamente disconnessi, cioè non raggiungibili. Quindi se x1 che cos'è? X alla prima, la matrice di raggiungibilità. Adiacenza. Di adiacenza. Più x alla seconda, x alla terza, fino a x a g alla meno 1, che è il valore massimo nel nostro caso, g meno 1 era 3. Se prima o dopo troviamo un valore, allora avremo, sommando il valore della singola cella che incrocia due nodi, un valore maggiore o uguale a 1. Dobbiamo trovare un 1 per dire sì, c'è un sentiero. E allora trasformiamo l'esito di questo risultato, di questa somma, nella identificazione di un 1 nella matrice di raggiungibilità. Sì, c'è un sentiero. Sono direttamente connessi. Potrebbe essere anche simmetrica. Sì, nel caso dei grafi semplici. Nel caso dei grafi semplici, la domanda è, potrebbe essere simmetrica. La matrice di raggiungibilità, siccome la matrice binaria è quadrata, potrebbe essere simmetrica. Nel caso di grafo semplice è solo simmetrica. Nel caso del grafo diretto è asimmetrica rispetto alla diagonale, è vero? Sì, perché ci può essere raggiungibilità. Faccio un esempio. C'è raggiungibilità da L1 ad L4, ma non il contrario. Ok? Devo sempre tenere conto. Quindi, entrambe sarebbero binarie e quadrate, cioè prevedono solo degli 0 e di 1, sono quadrate perché hanno sia solo dei che sono colonne soggetti, quindi hanno la stessa quantità di linee di colonne, però se la matrice di raggiungibilità è collegata a un grafo diretto, non è simmetrica. Il fatto che si possa passare da N1 ad N4 non implica che sia possibile anche il contrario. Altrimenti, se non troviamo mai un 1, vuol dire che i due nodi non sono raggiungibili. Ed ecco l'esempio che trovate nel testo. Qui sono un po', nel testo sono presentati in pagine diverse, le quali ho presi e attaccati. In teoria avevo messo un numero delle pagine, ma non si vede. Qua. Gianni, Daniele e Rosi, vedete, Gianni e Daniela, ricordate il problema di partenza, Gianni e Daniela, che non sono direttamente connessi, hanno un rapporto simile a quello tra Gianni e Nino? No. Allora, tra Gianni e Nino continuiamo a trovare un 0, come nella mia licenza, ma tra Gianni e Daniela troviamo un 1, perché esiste un sentiero di lunghezza 2 che rende raggiungibili reciprocamente Gianni e Daniela. Davide, Gigi e Piero erano collegati direttamente nella matrice di adiacenza e lo restano anche nella matrice di raggiungibilità collegata alla loro matrice di adiacenza. Veniamo per chiudere questa parte alla matrice delle distanze, ma vi consento di completare la scrittura. Okay. La matrice di distanza di G è una matrice quadrata del tipo N per N, soggetti per soggetti, le celle valgono 0 se i soggetti sono non raggiungibili, quindi se è collegata, torno a questo esempio disegnato qua, a un grafo diretto, mi darà una distanza tra N1 e N4 pari a 3, ma tra N4 e N1 riporterà 0. Le celle valgono 0 se i soggetti sono reciprocamente disconnessi, cioè non raggiungibili, valgono 1 se i soggetti sono a distanza 1, 2 se sono a distanza 2, eccetera. Ogni valore xj è compreso tra 0 e g-1. 0 sta per la non raggiungibilità e g-1 è la lunghezza massima, poi avere il sentiero che rende i nodi tra di loro raggiungibili. Tutto chiaro? testo Gianni e Daniela a distanza 2, Gianni e Nino sempre 0 perché non c'è raggiungibilità tra di loro, Gianni e Rosy 1, Rosy e Daniela 1. Comunque di logica non si, cioè di logica è inutile che si va, però nel senso, se noi tracciamo una riga tra Rosy e Davide, poi tra Gigi e Nino, sì, cioè contando senza fare diciamo le matrici, cioè, possiamo contare anche le linee, per esempio Gianni, Rosy una linea, seconda su Rosy e Davide, terza su Davide e Gigi e la quinta tra Gigi e Nino. Sì, sì. Però qua dopo nelle matrici dobbiamo fare N6, 6, perché diciamo che si fanno 6 passi fino all'arrivo, cioè il collegamento tra Gianni e Nino. Se passa attraverso... Quindi lo troveremo nella matrice numero 6, questo 1, il nostro famoso 1. Perché se Gianni passa per Rosy e Davide per arrivare a Nino, sono 1. No, io ho fatto 3. Nino e Gigi, ho fatto più... Cioè, okay. Nino e Gigi, poi Gigi e Davide, Davide e Rosy, Rosy e Gianni. Quindi sarebbero in totale 5 elementi. Però con 5 sono passaggi 6. Lo troverebbe alla matrice X alla sesta. X alla sesta. Troverebbe il sentiero, sì. E dobbiamo fare 6 matrici se abbiamo 7 soggetti per trovare il collegamento. Esatto, in questo caso i soggetti sono complessivamente... E non equivale se non si fanno le matrici, cioè non è che si possono contare i passaggi semplicemente. No, ma poi... Lei poi è interessato a sapere se sono raggiungibili, d'accordo? Okay. Quindi una volta inserita la matrice di adiacenza, che è quella in cui ci sono tutti i sentieri, i collegamenti diretti che lei adesso si è immaginato, eccetera, c'è un programma che dice crea la matrice di raggiungibilità e in un clic viene fuori, non è che si debba fare, d'accordo? Ma quello che fa il software è elevare la potenza. Sì, sì, sì, sì. Dica. Può far vedere il risultato sotto? Ah sì, perché io volevo dire una cosa. Riesci a vederlo così? Ok. Allora adesso noi abbiamo Daniela che ha due legami con Gianni, d'accordo? Perché per arrivare a Gianni? No, due passi. Deve passare da un mediatore che è Rosy. È a distanza di due. A distanza di due. E poi abbiamo Daniela che è collegata direttamente con Rosy. Quindi io in teoria cosa faccio? Lì esprimo che potrei avere tre legami. Cioè il risultato 3 sotto cosa mi definisce? Il risultato 3 che lei trova in corrispondenza di Gianni, non di Daniele, sì, guardiamo Daniele se preferisce. Il risultato 3 è la somma delle distanze che Daniele ha rispetto ai soggetti che essa può raggiungere. È la somma delle distanze. Quindi io sommo le distanze, sia che sia una distanza 1 o una distanza 2. Esatto. Ora questo concetto qua. Se il grafo è un grafo connesso, questo è un grafo connesso complessivamente? No. No, è un grafo che può essere espresso come l'unione di due sottografi, no, che sono due componenti, e uno è anche una click e due punti isolati. Ok, se il grafo fosse un grafo connesso, e se non lo è, adesso questo è molto semplice come scenario, ma è sufficiente dividerlo dei due o tre componenti che sono connessi con l'interno. Se Daniela collegasse con Davide, ad esempio. Adesso io voglio sfruttare il concetto che lei ha in qualche modo evocato, cioè la somma delle distanze. È molto importante questo concetto perché noi potremmo chiederci quali sono i soggetti in un grafo connesso che sono complessivamente meno distanti da tutti gli altri. Badate, questa è cosa diversa rispetto a chiedersi quali sono i soggetti che hanno più legami diretti, cioè che hanno dei legami diretti con gli altri. Meno distanti. Dei soggetti possono avere pochi legami. Faccio un esempio. Il soggetto che ha meno legami qua, cioè che la quantità tra le quantità minori, anzi, ecco, la quantità minore di legami che si possono registrare tra questi soggetti, c'è questo soggetto qua per esempio, ma anche questo. E anche gli ultimi. Anche questo. Anche questo. Ma sì, questo qua, per la posizione che occupa all'interno della rete, una valida un po' di distanze da fare. E globalmente, se noi sommiamo le distanze sulla sua riga e sulla sua colonna, troviamo un valore che è più basso rispetto a quello che troviamo per gli altri. Allora c'è un indice che si chiama di centralità globale. Perché globale? Perché quello dopo. No, perché? No, sì, è quello che diceva quell'altra volta. Posizione. È quello che bisogna stare attenti, che lega i due. No, è bravissima, bravissima. Questo è un cut point. Sì. Bravo. Nella fattispecie anche un cut point, d'accordo, ottimo, non ottimo. Mi questo punto, benissimo, benissimo. È un cut point o un punto di separazione. Sì, esatto. Bene. Si ricorda come si chiamano questi due legami qua? Allora. No. I ponti. O comunque quello che voglio dire è che questo soggetto qua ha una distanza complessiva più bassa. C'è un indice di centralità che fa un po' che adesso vedremo, forse non adesso, che si chiama indice di centralità globale basato sulla closeness, cioè sulla prossimità, che ci dice quali sono i soggetti che globalmente dentro la rete sono più vicini a tutti gli altri. Non è detto che siano quelli che hanno più legami diretti, ma questa caratteristica proviene loro non dalla loro connettività, diciamo, locale, intorno, il vicinato, ma dalla connettività globale all'interno della rete, cioè stato già dalle distanze. Però quel soggetto lì mi viene da dire che è quello che ha più distanze in totale, o no? No, perché allora vedete, per capire qual è la distanza da solo, facciamo un esempio, prendiamo questi due, questo e questo, e divertiamoci, se divertimento si può parlare, a sommare le distanze con tutti gli altri nodi all'interno della rete, non ci mettiamo molto. 1 più 2, sì, e siamo a 3, più altre 2, 5, e siamo a 4, e siamo a 5, 5. Più 1, 2 e 3, 8. 8, più 1, 2 e 3, 11, più 1, e non ho già fatto. 2 e 3 sotto, siamo già arrivati. Siamo già arrivati, lasciamo a 13. 14. Abbiamo finito questa. Abbiamo finito. No. Cosa manca questo? 2, 3, 4, siamo a 19. Ma fermi un attimo, è già prima. Allora 1 e 2, 3 e 2, 5. E 1, 2, 3 e 3. 8 e 3 dopo. Più altri 3. 11. 11. E abbiamo finito la parte sinistra, ok? Più facciamo la parte destra. 1. 11 e 4. 1. Poi 3. 4, 5. 6, 7 e 8. 6, 7, 8 e 9. 6 e 7, 8, 9 e 10. D'accordo? La somma totale è 21. Ok, facciamo la stessa cosa a partire da questo nodo qua. Questo, ok? 1, 2, poi 3, 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11, 12 e 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17 più 11, o no? 18, 16. 18, esatto, sì. 17 più 11, perché avevo già fatto le visite. Esatto, 17 più 11 28, sono 28. 28. Come somma delle distanze. Quindi ha una somma delle distanze complessiva, ma no, no, non può essere 17, no, è... Scusami, allora. No, perché... eravamo arrivati a 18, 3. Poi 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. La somma complessiva dovrebbe essere un numero intorno a 44. Quasi. Quindi è il doppio rispetto alle somme delle distanze che noi troviamo per questo nodo qua. Quindi ha una somma delle distanze inferiore è globalmente più centrale rispetto agli altri, ok? Però se noi guardiamo il grado di questi nodi, sono uguali. Se noi guardiamo il grado, il numero di linee incidenti con il nodo tra questo nodo qui e quest'altro, non vediamo nessuna differenza, sono uguali. In realtà questo non è vero, perché ci sono molte differenze strutturali tra di essi. Allora, veniamo al tema degli indici di centralità e degli indici di centralizzazione. Il calcolo degli indici di centralità riguarda i nodi, cioè è un nodo ad essere più o meno centrale, ad avere una certa centralità. La centralità è una caratteristica dei nodi. Ok? La centralizzazione è invece una caratteristica del reticolo. Il grafo complessivamente è più o meno centralizzato. Quando è che un'organizzazione è molto centralizzata dal punto di vista teorico? Quando ha un nodo che è interessato da tantissimi legami. Legami, quando ha molti legami. In un contesto in cui tutti gli altri ne hanno pochi, ne hanno meno. Un'organizzazione, un contesto relazionale è tanto più centralizzato, o se preferite verticistico, non è che ci sia una grande differenza in termini di analisi strutturale, la posizione della rete che crea una differenza di potere che ci permette di parlare di vertice, qualcosa stai sopra rispetto al potere che hai. Se un nodo è molto più centrale rispetto a tutti gli altri, allora questo nodo è una centralità, è un leader, e la sua centralità confrontata con la scarsa centralità degli altri conferisce al gruppo la caratteristica di essere altamente centralizzato. La centralizzazione è una caratteristica del gruppo. Un gruppo è tanto più centralizzato, un network è tanto più centralizzato quanto più al suo interno esistono uno o pochissimi nodi molto più centrali rispetto agli altri. Volete un esempio di grafico altamente centralizzato? Questo lo è. Ricordate il detto di videt impera? Che cos'è se non questo? Era dei romani. Che cos'è se non questo? In una situazione di questo tipo, in cui c'è uno dei nodi che è collegato con tutti gli altri e gli altri non hanno collegamenti tra di loro, questo nodo, ed è chiaramente centralizzato, si vede che è centralizzato, ma è centralizzato perché la centralità di questo nodo è molto più alta rispetto a quella di tutti gli altri nodi. Le organizzazioni della massoneria, che ci aveva spiegato quella volta, per cui non erano le società segrete? Sì, sì, sì, beh, sì, però sì. Lì non era centralizzata, era molto, era disconnessa le varie, però se, senso io, se noi consideriamo una mano come un nodo, effettivamente non sono collegate tra di loro, se no, oddio, no, non si configura proprio come un grafo a stella, cioè sono collegate ma hanno un unico legame, d'accordo? È debolmente, per cui ogni mano sostanzialmente è anche immunizzata rispetto alle altre. Questa è proprio una stella sociometrica, un grafo a stella. Guardate che molte organizzazioni, negli spazi che hanno di libera pratica della vita organizzativa e democratica, tendono a configurarsi in questo modo. E quando si configurano in questo modo, c'è sempre uno che ha più potere degli altri all'interno, d'accordo? Allora gli altri devono fare attenzione, l'unico modo che hanno per reagire è creare dei legami tra di loro. Allora, un indice di centralità direttamente collegato a, non a questa situazione qui, ma alle misure che abbiamo visto finora, ed è il più semplice, il primo che vediamo, è l'indice di centralità locale basato sul grado, degree, vedete che in pelle c'è la D, sta per degree. Che cos'è il grado? Rispondo a lei perché è diventato esperto del grado stasera. Cos'è il grado di nuovo? Il numero di legami povero. Bravissimo, il numero di linee incidenti con il nodo. Per il grafo semplice ha tutto il numero dei legami che ha. Ok. Allora, nei grafi semplici, l'indice di centralità locale basato sul grado è un indice che permette di standardizzare il grado. Se voi avete un nodo che ha 4 legami in un grafo composto complessivamente da 5 soggetti, lui compreso, e un altro che ne ha 8, cioè il doppio di 4, in un gruppo composto da 50 soggetti, hanno una centralità locale, cioè garantita dai legami diretti uguali, questi due soggetti, il primo ha 4 legami in un gruppo composto complessivamente da 5 soggetti, il secondo ha 4 legami in un gruppo, diciamo, composto complessivamente da 50 soggetti. Sono uguali dal punto di vista della centralità. Se questo secondo ne ha 8 invece che 4, cioè il doppio, è più centrale rispetto al primo? No, perché bisogna andare a vedere tutti i collegamenti che sono... Che non ha, tutti i collegamenti che potrebbe avere, ma non ha. Attivato. Allora, occorre una misura che consenta di comparare tra di loro i gradi, anche se cambiano i contesti relazionali, cioè le dimensioni dei gruppi, delle reti che prendiamo in considerazione. Ed ecco quindi la versione standardizzata del grado. Si prende il grado di e lo si divide per il valore massimo che esso può assumere all'interno della rete, cioè G-1. Facciamo un esempio. A quanto è uguale il grado di N1? Quale sarà la versione standardizzata di questa grandezza, cioè la centralità locale in entrata di N1? A 2. Dovremmo dividere 2, che è il grado, per il valore massimo che il grado può raggiungere. In questo grafico qui i nodi complessivamente sono 4. Vedete 1, N2, N3. Ed è 4. Qual è il valore massimo di 6? Come 6? Cioè, perché mancano anche i collegamenti. No, ma la quantità massima di legami che può avere è 1, cioè 3. È 3? Ah sì, era 3, perché non il numero massimo di legami, perché si ricontano. Sì, sì. Quelli che può avere il singolo nodo. Sì, 3. Ok, quindi 2 terzi. Ok? Questa è la misura normalizzata. Della, o standardizzata meglio, del grado. L'indice di centralità locale varia tra 0, nodi isolati, e 1. Il secondo indice che vediamo, lo vediamo perché l'abbiamo introdotto, anche se fra qualche minuto ci verranno, ci ricorderanno, dobbiamo chiudere. È l'indice di centralità globale basato sulla distanza o closeness, che appunto prova a definire operativamente, operativizzare il discorso che facevamo prima rispetto alla distanza complessivamente bassa del nodo, cioè il nodo che è più vicino a tutti gli altri, anche se magari ha pochi legami. Ok? Ecco, la centralità di un nodo dipende negativamente dalla somma della sua distanza da tutti gli altri nodi. Quindi prima abbiamo visto che un nodo aveva una distanza complessiva pari a 21. Un altro superava i 40, 44 se non ricordo male, no? Ricordate? Allora, però qual è il problema? Il problema è che in ogni caso queste grandezze da che cosa possono dipendere? Possono risentire della quantità complessiva dei nodi che costituiscono una rete. Una rete, per quanto completa, per quanto sia connessa e quindi tutti i nodi sono raggiungibili, se è molto grande, comunque avrà una somma delle distanze sia, diciamo, pratica tendenzialmente più alta. Soprattutto ci avrà una somma delle distanze teoricamente più alta. Allora, occorre anche qua cercare un fattore di standardizzazione. Beh, può avere le distanze, possono essere massimo. Quindi c'è una formula per cui calcolare le distanze massime? Facciamo il contrario. Perché partire dalle massime? Partiamo dalle minime. Ma la distanza minima è una. Ok, allora, un nodo che sia globalmente centralissimo è un nodo che è collegato direttamente con tutti gli altri. Ok? Allora, noi questa situazione teorica la possiamo misurare, la possiamo definire? Se un nodo è direttamente connesso con tutti gli altri, quale sarà la somma delle sue distanze? Sarà la somma di tutti i collegamenti diretti che ha. Quanti collegamenti diretti può avere un nodo? G-1. G-1. Se io sono direttamente connesso con tutti voi, quattro, la somma delle mie distanze sarà 1, più 1, più 1, più 1. Noi tutto quanto siamo? 5, cioè 5 meno 1. Ok? Allora, l'indice di centralità globale funziona proprio così. Tanto più la situazione reale delle mie distanze da voi si allontana da questa che è lo stato di grazia teorico, tanto meno io sarò centrale. Quindi per essere centralissimo devo avere esattamente questa distanza. Allora, se devo avere esattamente questa distanza, vuol dire che proviamo a inventarci la formula di una centralità basata sulla closeness di un nodo. Vorrà dire che il rapporto tra la mia distanza minima e la distanza reale deve essere uguale a 1. Questo è il top, ok? Quindi la mia distanza reale, che se cresce fa diminuire questo valore, starà al numeratore o al denominatore? Al denominatore. Al denominatore. Allora, al denominatore cosa ci metto? G-1. E sotto c'è la somma di tutte le mie distanze da tutti gli altri nodi. Il modo ortodosso per scrivere la formula è questo che trovate nella slide. G-1 al numeratore, questo è il modo in cui la formula è riportata nel testo, a pagina 122. Sono sicuro che lo sapete già. Se si moltiplica una grandezza elevata alla meno 1, è come se la si moltiplicasse per 1 franco questa grandezza. Quindi sarebbe G-1 diviso, ok? Diviso la somma delle distanze tra Ni ed Nj. Se la mia distanza da voi è effettivamente la somma dei legami diretti, il mio valore di centralità sarà 1, cioè il massimo. Tanto più invece, vogliamo che io fossi in collegamento, che sei in collegamento soltanto con il vostro collega, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, un settimo, allora chiaramente il valore di centralità si abbassa, può arrivare a 0, tenderà a zero, ma non può arrivare a zero. Perché non può arrivare a zero? Se no vuol dire che non sono connesso. Cioè, esatto. Vuol dire che sono isolato. Esatto. Se il grafo, siccome questa centralità si può calcolare soltanto per i grafi connessi, non disconnessi, quindi non ci possono essere elementi di disconnessione, se ci sono li togliete e prendete in considerazione soltanto quelli che sono connessi tra di loro, il valore minimo tenderà a zero, tuttavia non lo potrà mai raggiungere. Però potrei avere due modi con lo stesso valore di generalità. Certo, come no? Certo. Due, tre, sì. Potrebbe, numero certamente, potrebbe avere, per esempio, se avessi una situazione fatta a cerchio, di nodi fatti insieme in quadrato, diciamo, e ognuno avesse come un certo gruppo della varie entità, i tre elementi non sono uguali. No, ma già messi in questo modo, un grafo alla volta. Esatto, quello che dicevo io. Sono tutti uguali, ma anche in un grafo completo. Tutti hanno la centralità globale più alta, perché sono tutti direttamente connessi tra di loro, d'accordo? E questa è l'ultima, diciamo, così, informazione che vi ho anticipato. L'indice di centralità globale assume valore che vanno da 0 circa a 1, nodo centrale che si trova a distanza minima di tutti gli altri. I valori più bassi tenderanno a 0, ma non potranno mai raggiungerlo, poiché il concetto di distanza non può essere applicato ai grafi disconnessi. Giovedì vediamo l'indice di Bitwinness, che è appunto la capacità di fare il broker proprio, di mediare tra le coppie di nodi, esatto. La stanno indicando là dietro, glielo volevo comunicare. No, okay. Spero che non facciano dei segnali. No, no, segnali no, glielo posso garantire. Ecco, però appunto la Bitwinness, che non è proprio la stessa cosa rispetto alla centralità globale basata sulla distanza, perché è proprio la capacità del nodo di fare il mediatore tra coppie. Vedremo un indice di centralizzazione e poi, se portate qualche database, facciamo girare un po' di dati. La mia idea era di fare quello e poi anche di concludere un po' la parte sui sottografi. Poi venerdì guardiamo le ricerche, dove tutte queste cose sono applicate, o parte di queste cose, relative ad alcuni enti di emergenza che abbiamo fatto. Okay. Ti chiedo una cortesia, mi può tornare indietro dove c'era la slide dove era indicato l'indice di centralizzazione, che mi sono perso un attimo? No, non abbiamo visto l'indice di centralizzazione. No, c'era la descrizione, no? C'era l'indice di centralità. Questo che qui riguardava i nodi. Questa sarà qua. Sì, prego, mi prendevo perso un pezzo perché dicevo che riguarda il reticolo. Ma ci mancherebbe, prego, prego, prego. Io volevo mettermi l'appunto. Tanto il testo lo devi leggere lo stesso. Come? Tanto il testo lo dobbiamo leggere lo stesso. No, era solo per focalizzarmi il concetto, sennò poi me l'ho aperto. Certo, no, è chiaro che sono queste spessate di opzione. Vuol dire, il testo, tanto lo c'è molto, molto, molto velocemente, poi le cose le sapete già. Yeah.